Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo, devo dire, oggi doppio approfondimento sul federalismo. Perché? Perché chiaramente la notizia politica del giorno è la lettera inviata dal Presidente del Consiglio Berlusconi al Corriere della Sera, in cui sostanzialmente chiede un patto bipartisan, quindi maggioranza e opposizione, per rilanciare insieme la crescita, e nega, come già avvenuto in altre occasioni, l'ipotesi di una patrimoniale. Chiarisco subito che dell'ipotesi di una patrimoniale, quindi l'intervento di Giuliano Amato, di Pellegrino Capaldo, ma anche le risposte avute da altri economisti, noi non ci occupiamo, perché è veramente un dibattito in questo momento così teorico. Ci sono altri programmi che si occupano di questo. Noi restiamo sui fatti, sulla cronaca e sull'attualità economico-finanziaria. Quando vedremo delle proposte le discuteremo, ma in questo momento parlare di patrimoniale senza che vi sia uno straccio di disegno di legge è veramente un esercizio, appunto, che si può lasciare ad altri spazi di approfondimento. Parleremo però del federalismo fiscale, perché qui sì, c'è un decreto, cioè la quarta bozza, rivista dopo le richieste dei comuni. Il timore di molti è che questo federalismo fiscale, per la parte che riguarda i comuni, quella di cui stiamo discutendo da giorni, porti di fatto a un aumento della pressione fiscale complessiva, cioè lo Stato trasferisce meno soldi ai comuni, dà soprattutto la possibilità ai comuni di aumentare l'addizionale IRPEF, di avere altre formule per aumentare il gettito, ma di fatto non riduce la tassazione su base nazionale. E quindi il risultato complessivo è che noi si paghi più tasse, che poi una parte va dai comuni, una parte va dallo Stato. Quando uno le tasse le paga, poco importa. Di tasse però parleremo, anche perché oggi la Guardia di Finanza ha diffuso i dati sugli evasori fiscali scoperti nel 2010, e i numeri sono sempre impressionanti, devo dire, perché si tratta, al di là dei falsi invalidi, parlo solo degli evasori fiscali: 50 miliardi di redditi non dichiarati nel 2010, più 46% rispetto al 2009, questa è la parte scoperta, e 8.850 evasori totali, più 18% sul 2009, e hanno evaso redditi complessivamente per oltre 20 miliardi, e IVA per 2 miliardi e 6, sono sia persone fisiche che aziende. Praticamente nel 2010 ci sono anche 30 miliardi di IRAP evasa e 6 miliardi e mezzo di IVA evasa. Ne parleremo con il generale della Guardia di Finanza, che ha coordinato l'intera operazione, il capo ufficio tutte le entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza. Ancora stiamo attendendo notizie dall'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore sulla bozza della nuova IRAP, e anche di questo parleremo nel corso della diretta. I dati della Chrysler, buoni, soddisfazione da parte di Marchionne, e poi la borsa, come sempre. Nella seconda ora del programma discuteremo sia del federalismo fiscale, del perché debba portare nuove tasse, una cosa che non riusciamo a capire. Cioè, se c'è un trasferimento, lo Stato chiede di meno, e chiede, l'equivalente lo chiede il Comune. Dicevo, ne parleremo con il numero uno dell'ANCI, ossia dei comuni italiani, nonché sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, nonché esponente di punta del PD. Avrò modo di parlare con lui anche di questa proposta di Berlusconi che il PD ha rifiutato, cioè di un piano bipartisan, ripeto, per rilanciare la crescita, riforme da varare anche con l'opposizione. Volete sapere già della situazione egiziana? Allora partiamo subito, scusatemi, con le notizie in breve. 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS. Non ci sono effetti sui mercati. Avevamo visto venerdì un po' di tensione sull'euro e sul petrolio, perlomeno per quello che riguarda l'euro. L'euro è stabilmente tornato sopra quota 1,37, l'oro è in calo oggi a $1,330 l'once, il petrolio è in rialzo a New York, però anche qui delle volte la stampa, quindi noi compiamo del cortocircuito. Insomma, il petrolio a 89 è rimasto per moltissime settimane senza che vi fosse nessuna tensione o disordini in Egitto né in Tunisia, per cui insomma 89,4 è un livello alto, ma è un livello che purtroppo il petrolio ottiene da settimane. Come vanno le borse? Francoforte negativa, meno 0,1, Parigi più 0,4, Londra meno 0,1, Milano guadagna invece lo 0,3%. Per quello che riguarda i titoli, oggi non ci sono variazioni fortissime, però Parmalat guadagna il 2%, Enel Green Power pure, Fiat l'1,86% di rialzo, Saipem più 1,70 come Diasorin, l'1,60 lo guadagna Webanca, l'1,30 il Banco Popolare, l'1,2 il rialzo di Finmeccanica, ma anche del Monte dei Paschi e di Snam Rete Gas e di Enel. L'1% è quanto guadagna invece Mediaset, lo 0,80 Terna e Generali. Fiat camion e trattori perde l'1%, Fiat Industrial, Fondiaria meno 1,70, Bulgari perde l'1,1, Telecom l'1% come Buzzi Unici. Alcune trimestrali diffuse oggi: ExxonMobil ha archiviato il quarto trimestre 2010 con un utile netto di 9 miliardi 250 milioni, 3 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2009, meglio di ogni stima, e l'OPEC continua a dire che aumenteranno la produzione se arriveranno interruzioni dall'Egitto, però attenzione, perché l'Egitto è diventato sempre più un utilizzatore domestico di petrolio, la sua produzione infatti è in calo da qualche anno, e tra l'altro quest'anno dovrebbe diventare importatore netto di petrolio, cioè quello che produce non gli basta per il suo fabbisogno. E le esportazioni petrolifere forniscono appunto sì risorse per pagare i sussidi della popolazione, meno export, meno fondi per i sussidi. 3 milioni di barili di greggio al giorno transitano dal canale di Suez, questo è il vero problema, e dall'oleodotto di Sumed. Non è tanto la produzione egiziana, è quello che transita attraverso il territorio controllato dall'Egitto. 3 milioni di barili di greggio al giorno vogliono dire il 2,6% dell'intera produzione mondiale al giorno. Allora, vedo che dice basta con il federalismo. Beh, attenzione, perché si va verso i decreti attuativi, poi le tasse le paghiamo tutti, dovremmo pagarle tutte, perché mi sembra un tema di attualità. In Egitto comunque, torniamo all'economia internazionale, restano chiuse le banche e la borsa, per cui anche l'agenzia di rating Moody's dopo Fitch ha tagliato il voto al debito egiziano da BA2, in realtà ha portato l'outlook, le prospettive a negative. I CDS, ossia credit default swaps, quanto costa il premio della polizza assicurativa per assicurarsi contro il crack dell'Egitto, se si hanno obbligazioni egiziane. Ebbene, il premio di questa polizza è passato da 200 a oltre 400 punti, quindi è raddoppiato. Devo dire che crescono anche quelli dell'Arabia Saudita, e del Qatar e del Bahrain. Le banche più esposte verso l'Egitto. Beh, l'Italia è il primo paese quanto interscambio commerciale, per fortuna non è il primo paese quanto esposizione bancaria. Le banche francesi infatti hanno di più, hanno quasi 18 miliardi di dollari di esposizione, quelle britanniche 10 miliardi, le banche italiane seguono con 6 miliardi e 3, poi quelle americane con 5 miliardi, le tedesche con 2 miliardi e mezzo. Sono 49 miliardi di esposizione delle banche internazionali con l'Egitto, meno di quanto non avessero le banche europee con la Grecia e molto meno di quanto non vi fosse con l'Irlanda. Però poi i talcementi ha temporaneamente sospeso la produzione la produzione in Egitto, dove è presente tramite la controllata molto grossa la Suez Cement, lo ha chiarito la stessa società. Dall'Egitto all'Europa, la Banca Centrale Irlandese ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita sull'Irlanda, più 1% contro il 2,5% stimato a ottobre, l'inflazione in Europa sale al 2,4% e in Spagna è molto alta, è al 3%, ai massimi da 2 anni a questa parte. Uh, Allora, delle proposte di Berlusconi parleremo più avanti, anche se qualche reazione c'è già stata. Ripeto, l'accordo bipartisan con l'opposizione per far tornare a crescere l'economia italiana. L'appello rivolto direttamente al segretario del PD Luigi Bersani da parte di Berlusconi. Riforma costituzionale dell'articolo 41. Misure drastiche di allocazione sul mercato del patrimonio pubblico e defiscalizzazione a vantaggio delle imprese e dei giovani. Misure drastiche di allocazione sul mercato del patrimonio pubblico vuol dire, insomma, potrebbe voler dire anche le partecipazioni, anche se dubito che il Tesoro rinunci ad Eni, ad Enel, a Finmeccanica, perché producono molti utili, ma tutti i beni ancora in mano al patrimonio pubblico, i beni demaniali ancora in mano al patrimonio pubblico. E trova positivo la presidente Confindustria Marcegaglia che si parli di crescita, si facciano cose per la crescita. Dopo la lettera di Berlusconi al Corriere della Sera sentiamo al microfono del collega dell'agenzia di stampa Radio Coro e Sole 24 Ore, Nicola Filippone. Concentrarsi sulla crescita, parlare di crescita è per noi la cosa più importante. È importante che ci siano iniziative che vanno in quella direzione. Sul tema della patrimoniale noi siamo stati molto chiari, io l'ho detto qualche giorno fa, secondo noi in un paese che ha già una tassazione così alta fare una patrimoniale per ridurre il debito pubblico non è la scelta corretta, piuttosto si vendano alcuni beni pubblici. Ci sono delle stime non nostre ma di enti pubblici che dicono che ci sono circa 500 miliardi di euro di beni, di cui 385 miliardi di beni immobiliari vendibili, quindi prima di parlare di patrimoniale si parli appunto di vendita di questi immobili, insomma, di questi beni. A me quello che interessa è che il dibattito e poi le scelte concrete vadano nella direzione di parlare proprio di crescita, che è l'unica che può risolvere il problema dell'occupazione, della tenuta delle nostre imprese, quindi di un'uscita dalla crisi migliore di quella che già vediamo. Quindi io sono positiva sul fatto che si parli di crescita e si cerchino di fare delle cose per la crescita. Sulla proposta di Berlusconi, di carattere squisitamente economico, è intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, ribadendo e sottolineando che è una proposta sullo sviluppo economico del paese, non è una proposta politica per un accordo di governo. Ora devo dire che, insomma, nel momento in cui chiede l'opposizione, che ha detto di no per ora, un piano bipartisan è una proposta non di governo in senso stretto, ma comunque di politica economica del paese. Comunque, sentiamo Romani. Sempre al microfono del collega dell'agenzia di stampa Radio Coro, Sole 24 Ore, Nicola Filippone. Mi pare che la proposta sia riferita a una proposta bipartisan su un tema di sviluppo economico del paese, non mi pare che ci sia una proposta politica di un accordo di governo. Mi pare che sia una proposta largamente positiva. Abbiamo mantenuto il rigore, abbiamo garantito la stabilità, adesso dobbiamo catturare e spingere sullo sviluppo. Una proposta di bipartisan all'inizio di questo percorso mi è sembrato assolutamente corretto anche da un punto di vista di rapporti con le opposizioni e di rapporti istituzionali. E se l'opposizione dichiara sempre che sia tardiva l'attività di governo, il governo ritiene invece di essere esattamente nel momento in cui sia giusto fare questa proposta. La proposta mi sembra larga, mi sembra ampia, c'è l'applicazione dell'articolo 41 della Costituzione sulla quale possiamo studiare tutti insieme, ci sono tanti provvedimenti all'esame del Parlamento, c'è la riforma degli incentivi che porterò nelle prossime settimane in Parlamento, ci sono tante riforme che si possono anche fare insieme nell'interesse del Paese. Così il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Allora, di questo parleremo dopo con Sergio Chiamparino. Due precisazioni a chi scrive. Invitiamo Chiamparino non in quanto PD, ma in quanto presidente dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, che tutti assieme, nord, centro, sud, destra, sinistra, piccoli e grandi, avevano bocciato la terza bozza sul federalismo perché non erano chiare le risorse dei trasferimenti ai comuni e immagino di autonomia. Per questo lo invitiamo, è inutile che mi scriviate inviti anche la Lega, sappiamo che la Lega è per il federalismo, ma volevamo capire perché i comuni fossero così contrari a quella bozza di federalismo. E resta sullo sfondo la domanda del perché il timore è che aumentino le tasse complessivamente e non vi sia solo un trasferimento a somma zero. Seconda risposta a chi scrive sul tema politico della proposta di Berlusconi. Allora, ne parleremo anche con Chiamparino, ma cerchiamo di capirci. È chiaro che è una proposta che, come scrivono alcuni, arriva forse in un momento di difficoltà del governo, le vicende private del Premier, che poi diventano anche vicende pubbliche, la magistratura e quant'altro, la tenuta della maggioranza. Però, insomma, il dato politico c'è. Il motivo per cui arriva, insomma, cerchiamo di non fare nemmeno le verginelle. Di solito un governo, quando è forte, non vuole fare accordi con l'opposizione, quando è debole può tentare accordi bipartisan, come fece il governo tedesco anni fa. Insomma, questo però è nelle cose, non starei tanto a sorprendermi. Invece resto sorpreso, e di questo farò un chiodo fisso oggi, non dell'evasione fiscale, ne parliamo fra qualche minuto, ma dai, perché i timori sulla riforma federale per quello che riguarda le deleghe ai comuni in tema di possibilità di addizionali IRPEF e quant'altro possono portare a un aumento della pressione fiscale complessiva. Può sembrare una cosa banale, ma io veramente non la capisco. Allora, poi ne parliamo con Chiamparino. Adesso ne vorrei parlare però con uno dei massimi esperti di federalismo fiscale e di federalismo in questo paese. Mi riferisco al professor Massimo Bordignon, che insegna all'Università Cattolica di Milano, è docente di Scienze delle Finanze e scrive spesso di federalismo sul Sole 24 Ore. Professore, buonasera. Buonasera a lei. Allora, giovedì ha detto il ministro Maroni è una giornata decisiva, se non passa si va a elezioni. E vabbè. Vorrei capire però perché, anche se il ministro Tremonti da Sestola ha garantito non aumenteranno le tasse, perché il timore che abbiamo tutti dopo aver letto l'ultima bozza è che ci possa essere un aumento complessivo di quella che è la mia pressione fiscale, che poi venga dal comune, dalla regione o dal centro? Cioè, c'è qualcosa di non chiaro nei trasferimenti? Mi faccia capire. Beh, dunque le spiego. Beh, il punto fondamentale è che i comuni hanno ottenuto come condizione per dare parere positivo la riattivazione dell'addizionale sull'IRPEF che Tremonti aveva bloccato all'incirca 2 anni fa. Bisogna anche però ricordare che cosa è successo nel frattempo, cioè il governo quest'anno, la manovra fiscale di quest'anno ha eliminato qualcosa come 1,5 miliardi di trasferimenti ai comuni, rendendoli alcuni in condizioni abbastanza dure, e bisogna anche ricordare che esiste un patto di stabilità interno che anche sui comuni virtuosi ha bloccato dei soldi che questi non potevano spendere neanche per gli investimenti. Quindi c'è una serie di enti locali che sono in difficoltà. La prima bozza del decreto, come diceva lei, era sostanzialmente un trasferimento, una modifica di risorse, ma a somma zero, per cui i comuni invece di ricevere un trasferimento direttamente dallo Stato lo ricevono e avevano da alcuni tributi, ma non cambiava nulla. E i comuni si sono trovati in una situazione di difficoltà perché non sapevano che cosa sarebbe successo e hanno richiesto con forza, oltre ad altre cose, questo spazio di manovra all'interno dell'addizionale IRPEF che avevano già precedentemente ma che era stata bloccata. Quindi insomma le stime, i sospetti è che probabilmente qualche cosa succederà. Ora non le so dire con esattezza se tutti i comuni agiranno e aumenteranno l'addizionale IRPEF, anche perché la possibilità di incremento è limitata solo allo 0,4% e solo per i comuni che non l'avevano utilizzata prima, poi per quelli che l'avevano utilizzata fino a un certo livello si può arrivare fino a un aggiunto dello 0,2, ma solo se erano comunque all'interno della soglia dello 0,4, quindi riguarda solo una parte dei comuni. Un classico esempio è per esempio quello di Milano che non ha mai usato l'addizionale, quindi c'era anche una situazione, se vuole, di asimmetria. Quando si fa un blocco in pratica si fotografa la situazione. Questo è chiaro, ma mi dica una cosa, professor Bordignon, visto che lei insomma è da sempre favorevole al federalismo, un federalismo insomma sano e concreto. Lei, come cittadino, teme che se passerà il federalismo in questo modo, con questa quarta bozza, quindi con partecipazione all'IRPEF, con partecipazione all'imposta di registro, cedolare secca, anche lì con partecipazione dei comuni, vuol dire che una parte di queste entrate le prendono anche i comuni, IMU che prende il posto dell'ICI, sblocco di IRPEF, c'è il rischio che aumenti complessivamente la pressione fiscale o è solo a quel punto una volontà ma non un rischio oggettivo? Senta, a me onestamente il problema dell'incremento della pressione fiscale mi preoccupa fino a un certo punto. Quello a me preoccupa di più perché insomma ci sono naturalmente delle sacche di inefficienza e devono essere curate, soprattutto in alcuni comuni rispetto a quell'altro. Poi per me è del tutto naturale che se uno deve finanziare dei servizi poi deve finanziarsi da qualche parte, o che siano tasse, siano fonti di tariffe. Poi il vero gioco del federalismo è che ci sia qualcuno che poi controlla quello che succede, che quindi se uno deve pagare per dei servizi è anche un incentivo poi a decidere. Vabbè, lì i cittadini non ti votano poi. Esattamente, quindi il controllo, l'importante è che le cose siano chiare e trasparenti e il controllo politico ci sia. Il vero problema, secondo me, di tutto questo pasticcio, era quello che ho scritto in più di un'occasione, sì, solo 24 ore da altre parti, è che di nuovo si apra sull'IRPEF. Io da sempre sono sfavorevole a un addizionale comunale sull'IRPEF, perché l'IRPEF non è quell'imposta, diciamo, generale su tutti i redditi che uno crede che sia o che dovrebbe scritto nella nostra Costituzione. Se la guarda, per l'80% è fatta da redditi di lavoro dipendente. Certo, adesso ne parliamo con la Guardia di Finanza. Il resto è reddito da lavoro autonomo, sostanzialmente, non c'è quasi nient'altro. Quindi c'è il rischio che si prema sempre sui soliti, questo è il problema. Sarebbe stato meglio, secondo me, l'errore fondamentale, che naturalmente è ben voluto dalla maggior parte dei cittadini, compresi quelli che ci stanno ascoltando, è stata l'abolizione dell'ICI prima casa. Però mi faccia capire una cosa, perché lei di questo ha scritto anche sul Sole 24 Ore lo scorso 25 gennaio, ma perché l'ICI è meglio dell'IRPEF? Perché lei dice, siccome l'evasione in Italia è alta, l'IRPEF si scarica per l'80% sui lavoratori dipendenti, adesso parliamo dell'evasione con il generale della Guardia di Finanza, però l'ICI è secca. Cioè, voglio dire, era meno proporzionale ancora dell'IRPEF, cioè a questo punto, o no? Dunque, intanto è un cespite diverso, cioè quindi non si fa a cadere sempre sul solito, si sposta su un altro cespite che rappresenta in qualche modo la misura del valore patrimoniale. Poi, naturalmente, come dicevo sempre in quell'articolo, c'era da rimettere in piedi il catasto, quindi invece piuttosto di abolirla bisognava accelerare la riforma del catasto, perché il valore di un immobile dipende anche dai servizi che vengono offerti a quell'immobile, cioè se lei ha una casa e il comune attorno le costruisce la piscina, certo, i mezzi di trasporto, l'illuminazione eccetera, il valore della sua casa aumenta, se viceversa in una zona buia non ci arrivano i tram, il valore del suo immobile diminuisce, quindi in un certo senso il valore dell'immobile è in qualche modo cumula i servizi che vengono offerti dallo stesso comune, quindi c'è un rapporto di beneficio, io pago un po' di più perché ottengo anche di più da parte del comune. Quindi lei dice, in sostanza, rivedendo il catasto e facendo applicando l'ICI o l'IMU, come si chiamerà, si riesce, di fatto è un po' una patrimoniale, perché insomma no, non è, cioè è un'imposta, è un'imposta sul patrimonio, ma io non male su questo, no, guardi, adesso così mi faccio odiare da alcuni ascoltatori, non ho nulla contro la patrimoniale fatta seriamente, cioè come in Francia o in Svizzera, non le patrimoniali. No, però mi faccio dire una cosa, perché forse chi ci ascolta non lo sa, perché è bene che questo lo diciamo. Allora, se lei prende, per esempio, quello che io dico sempre, il paese più bolscevico del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, sì, le entrate dal patrimonio sono circa il 4% del PIL. Da noi, prima dell'abolizione dell'ICI prima casa, erano circa l'1%, adesso siamo allo 0,7%. Cioè, questo noi dobbiamo tener conto anche di come è fatto il paese, cioè noi siamo un paese che ha grosse difficoltà di crescita e di distribuzione del reddito, dov'è che andiamo a tassare? Tassiamo sostanzialmente i fattori produttivi, il lavoro e il capitale. Cioè l'IRAP sulle imprese e l'IRPEF sulle persone fisiche. L'IRAS. Praticamente l'IRPEF, che poi è quello che introduce il cuneo fiscale tra quello che lei percepisce dalla sua impresa e i soldi che c'è in tasca. Un'ultima domanda, professor Borgnon, su questo. Va bene, l'abolizione dell'ICI è stato un errore, l'IMU la reintrodurrà, d'accordo. L'IMU fa un'altra cosa, mi permetta, sì, perché l'ICI non è stata abolita sulle seconde case, no, solo sulla prima. Prime case. Allora, io sono preoccupato anche di questa distorsione, capisci? Perché l'ICI sulle prime case non è solo un discorso di quale cespite perché migliore l'uno dell'altro, ma l'ICI sulla prima casa tendenzialmente l'ICI pagata dai residenti, quindi i residenti votano, giusto? Sì, allora probabilmente se gli aumentano le tasse hanno ben ragione di rivalersi nei confronti del sindaco, quindi c'è automaticamente un meccanismo di controllo. In questo modo quello che succede, avendo eliminato questa parte consistente della base imponibile dell'ICI, probabilmente quello che può fare il comune può variare l'aliquota soltanto sulle seconde case e sulle imprese, cioè sostanzialmente sui non residenti. Beh, e lei capisce, costruisce un meccanismo in cui se io voglio aumentare le imposte tasso di più i non residenti. Sì, però posso dire una cosa, adesso non voglio, anche qui il mio tasso di popolarità scenderà oggi, ma uno che ha una seconda casa al mare, in montagna, non è sempre gente ricca, lo sappiamo, però insomma stiamo ragionando di una seconda casa, io trovo anche corretto che un sindaco prima di tassare chi abita in un paese che già paga la tassa sui rifiuti e quant'altro, tassi chi ci viene solo d'estate o solo d'inverno, per quanto stiamo parlando di IMU, di ICI, no? Sì, sì, ma c'era la, ma le ricordo che anche nell'ICI precedente era prevista una deduzione per la casa di prima abitazione consistente, in alcuni casi era sufficiente anche ad abolirla completamente l'ICI. Cioè io non, voglio dire, avrei lasciato la massima libertà ai comuni di fare quello che volevano. Ma sì, okay, anche di eliminarla. Però, professore, del tutto su alcuni. Ho capito, questo è il federalismo fiscale, il comune che deve fare l'asilo, lo diciamo sempre, e chiede ai suoi cittadini una tassa in più o come addizionale IPEF o come ICI per fare l'asilo, poi risponderà in fase elettorale di questo. Se invece gli stessi soldi li chiede perché ha, stavo per dire una parolaccia e questo programma non le dice, vabbè, ma l'ha sprecati, ha sprecato soldi per consulenze e quant'altro, e favori e prebende, i cittadini lo puniranno se sono seri. Se poi, così rispondo anche agli sms, i cittadini sono seri, beh, insomma ragazzi, se uno è un po' mona e si merita un sindaco così, cosa devo fare? Cioè adesso non è che possiamo sempre salvare tutti, no? Allora, anche i cittadini si impegnassero a controllare quello che fa il sindaco. Detto questo, a me sembra, professore, che giriamo attorno però a un tema, e cioè il rischio dell'aumento della pressione fiscale con il federalismo nasce dal fatto che lo Stato centrale non rinuncerà al gettito attuale, quindi i comuni al massimo avranno gettito in più, perché non è in grado di chiudere il pubblico impiego a Roma, nei ministeri, i trasferimenti, perché costerà lo Stato sempre uguale, o no? Beh, insomma, è chiaro che in realtà le uniche cose, diciamo così, che ha fatto un po' Tremonti in questi ultimi due anni è cercare di controllare di più la spesa pubblica. È vero, è vero. L'ha fatto, insomma, alcuni interventi sono stati anche interventi effettivi, l'allungamento dell'età pensionabile, anche se per il momento è stata mascherata come un incremento solo di un anno, ma nei fatti un aumento dell'incremento dell'età pensionabile. Sulla scuola sono stati fatti interventi. È vero però che se lei guarda, dice, ma chi è che paga poi il conto di questi interventi? Forse in maniera eccessiva, diciamo, lo Stato centrale ha giocato il gioco del cerino, cioè ha trasferito agli enti locali i oneri dei risparmi piuttosto che tenerli al centro. Cioè, non potendo controllare più di tanto la propria spesa, non avendo la forza di farlo, sì, ha preferito scaricare il batino. Sì, io temo, con questo devo lasciare andare, temo che il problema sia... Allora, se il governo dicesse, io continuo a intascare gli stessi soldi di prima, perché in questo modo riduco il deficit e il debito, sarebbe anche un percorso virtuoso, perché i soldi che risparmia nel trasferimento alle regioni e ai comuni, 8 miliardi in due anni alle regioni, 5 miliardi in due anni ai comuni, in meno, li usa per pagare deficit e debito. E lì potrei anche capire, perché abbiamo un debito che fa spavento, ma se invece li usi per mantenere gli stessi impiegati nella funzione pubblica, che poi non hanno più le funzioni perché le hai trasferite ai comuni e alle regioni, lì non ci capiamo più. Comunque, mi sa, professor Bodignon, che ci risentiremo, perché il tema, a partire da giovedì prossimo, decisivo, ripeto, perché altrimenti la Lega ha detto che si va a votare se non passa il federalismo. Grazie intanto a Massimo Bordignon, docente di Scienze delle Finanze alla Cattolica di Milano. Allora, adesso andiamo in pubblicità, meteo, poi la Guardia di Finanza e la Borsa. Una risposta: la tassa dei rifiuti si paga anche sulla seconda casa? Ho solo detto che è comprensibile che un comune, che un sindaco, prima di tassare i suoi residenti che lo votano, ci sono comuni piccoli che hanno d'estate e d'inverno 4-5 volte gli abitanti rispetto ai residenti, tassi, diciamo, il turista che si è preso la seconda casa lì, questo è comprensibile. Comunque, meteo, pubblicità, poi la Borsa, che ha chiuso con un più 0,12%, anzi, prima facciamo la Guardia di Finanza, così ci arrabbiamo un po' sugli evasori totali, quanto hanno evaso per categoria e per fenomeno. ...17:38 minuti... di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Giovedì, ci chiedete cosa capita, c'è il voto della Commissione bicamerale, già slittato di una settimana e passa, per dar spazio alla quarta bozza sulle richieste dei comuni, e appunto il ministro Maroni oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice: se non passa si va a votare. Detto questo, possiamo fare subito i temi dell'evasione fiscale, direi, e poi passare alla borsa. Perché? Perché oggi, sempre in tema di tasse, così chi dice, ma non è vero che l'IRPEF la pagano solo i lavoratori dipendenti. Beh, non è vero, nel senso che la pagano, si scarica per quasi l'80% sui lavoratori dipendenti. Il problema di qualunque federalismo fiscale è che quando tu hai un'evasione che viaggia sul 200 miliardi, con 100 miliardi di mancato gettito, rischi di creare delle sperequazioni, anche se a mio avviso ha ragione chi dentro la Lega dice ma insomma i comuni però sono più in grado di controllare l'evasore di quanto non faccia lo Stato centrale. E allora parliamo di evasione fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Ne hanno beccati 50 di miliardi di redditi non dichiarati nel 2010, più 46% rispetto al 2009, è il dato contenuto nel rapporto annuale della Guardia di Finanza. Già il comandante delle Fiamme Gialle, il generale Nino Di Paolo, aveva reso noto il dato lo scorso 26 gennaio. Comunque, 8.850 evasori totali, più 18%. E poi le varie tipologie, anche IVA 6 miliardi e 3, quindi anche le imprese, 30 miliardi e mezzo di IRAP evasa. Fa spavento il dato sugli evasori totali, perché insomma hanno evaso redditi per oltre 20 miliardi. E poi la parte dell'evasione fiscale internazionale, perché su 50 miliardi nascosti dal fisco, 10 avvenivano grazie all'evasione fiscale internazionale. Poi ci sono 4.500 tra falsi invalidi e finti poveri, 4.486 truffatori, finti poveri in Veneto, pensate che chiedevano un contributo per pagare l'affitto, ma poi guidavano auto lussuose, avevano appartamenti anche nel centro di Firenze, anzi nel centro di Firenze chiedevano buoni per le mense scolastiche e per l'acquisto dei libri dei figli. Cioè alla vergogna e all'indecenza non c'è limite, perché quando poi tu li chiedi questi contributi li levi a qualcun altro, eh. E poi commercianti calabresi, esenzione del ticket sanitario pur possedendo 90 immobili. Volete l'America? In America si va in galera per una cosa del genere. Generale Stefano Screpanti, capo ufficio tutela del Comando Generale della Guardia di Finanza, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, generale, intanto cerchiamo di distinguere, perché giustamente gli ascoltatori vogliono distinguere e hanno ragione. Partiamo dagli evasori totali, che sono i più indegni di tutti, e poi arriviamo anche al resto. La distribuzione dell'evasione per categorie, per fenomeno e per area geografica, già la chiedono gli ascoltatori, eccovi accontentati. Prego. Beh, guardi, l'evasione fiscale è un fenomeno molto diffuso e che ha una distribuzione più o meno omogenea in tutte le categorie economiche. L'unità d'Italia si fa sull'evasione, no? Dai. Beh, noi monitoriamo in maniera più ravvicinata le categorie interessate dal fenomeno dell'evasione totale, cioè da coloro che pur lavorando e producendo reddito non producono dichiarazioni. Degli 8.850 evasori totali scoperti nel 2010, 3.064 sono stati individuati nel settore dell'edilizia, 1.940 nel settore del commercio all'ingrosso al dettaglio, 809 nelle attività manifatturiere e 503 nel comparto attività professionali, scientifiche e tecniche. Quindi una certa concentrazione. Quest'ultimo comparto, quant'è, mi scusi? 503. E cosa sarebbero attività professionisti? Quindi 3.000 nell'edilizia, 1.900 nel commercio, 800 nelle attività manifatturiere e il resto distribuito nelle altre categorie. C'è da dire anche che di questi 8.850 evasori totali ce ne sono 3.288 che sono stati denunciate l'autorità giudiziaria perché hanno evaso più di 70.000 euro di imposte e quindi si sono resi responsabili di reati tributari che appunto sono stati segnalati alla magistratura. Ecco, per quanto riguarda i fenomeni, accanto all'economia sommersa di cui fanno parte gli evasori totali, c'è stata una forte attenzione, lei l'ho già ricordato, sull'evasione fiscale internazionale e in particolare il trasferimento occulto di capitali all'estero. L'aumento di questa attività è dovuto molto a un'intensificazione della collaborazione internazionale. No, ecco, ci faccia capire una cosa, perché vedo già i messaggi al 349-238-6666. Il fatto che tutte le voci siano in aumento, e cioè più 18% gli evasori totali rispetto al 2009, più 46% i redditi non dichiarati, cioè 50 miliardi, è una buona notizia o una cattiva notizia? Ma secondo noi è una buona notizia perché è un indice della capacità degli organi di controllo di scoprire l'evasione fiscale e di scoprire i responsabili. C'è da dire che l'aumento di questa capacità è reso possibile da diverse ragioni. La prima, una naturale maturazione di professionalità e di competenze da parte di chi fa questo mestiere, ma poi molto ha fatto la tecnologia. Le comunicazioni telematiche che i contribuenti sono venuti a fare nei riguardi dell'amministrazione finanziaria stanno aumentando il patrimonio di dati e informazioni nelle banche dati a nostra disposizione che ci permettono di incrociare queste informazioni con le notizie che acquisiamo sul territorio e possiamo individuare già prima di avviare i controlli quei soggetti connotati da più alto rischio, quindi i controlli aumentano di qualità perché aumenta la capacità di individuare prima gli obiettivi che produrranno risultati. Questo credo sia il significato profondo, il significato vero di questo aumento dei risultati. Allora, mentre chiarisco di nuovo alcuni ascoltatori che lo sappiamo che la tassa rifiuti si paga sulla seconda casa, l'abbiamo detto, stavamo solo facendo un ragionamento sui sindaci, adesso però chiudiamo questo. Sulle aree geografiche mi sembra che il generale Screpanti abbia già risposto, cioè sono ben distribuiti, ahimè, o per fortuna, insomma, nord, centro, sud, ho capito bene? Sì, c'è una ovviamente la proporzione rapportata al reddito prodotto, chiaro, delle varie aree territoriali, ma è una proporzione sostanzialmente coerente. Allora, dopo il traffico e prima della borsa, anche qui la borsa oggi è veramente modesta, più 0,12%, aspettiamo un attimo, lo dico a chi scrive, vorrei capire le categorie, lei già mi ha accennato, insomma, edilizia, commercio e quant'altro, ma soprattutto anche quanto lo Stato recupererà da questa evasione, perché poi sappiamo che l'accertato è una cosa, e se c'è stato molto cicchino dello scudo fiscale, cioè vedere che 10 miliardi sono usciti dal paese verso paradisi fiscali all'estero è strano, perché dice c'è stato lo scudo fiscale, avresti dovuto portare dentro e non avere più la tentazione, mettiamola così. 349-238-6666 per i vostri sms, le risposte dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, quanto si riuscirà a incassare di questi 50 miliardi? Delle categorie mi sembra che si vuole aggiungere, ma abbiamo già detto. E insomma, cosa vuol dire che 10 miliardi se ne vanno all'estero dopo lo scudo fiscale, secondo lei? Allora, per il primo aspetto c'è da osservare che negli ultimi anni, parallelamente all'aumento dell'evasione scoperta, aumenta in maniera più o meno proporzionale anche l'aumento delle imposte accertate e delle riscossioni. Nel 2009 la maggiore imposta accertata a seguito di controlli svolti da tutta l'amministrazione finanziaria è aumentata di circa il 30% rispetto al 2008, con un correlato incremento del 32% dei tributi complessivamente riscossi. Sapremo a breve dagli organi competenti qual è l'andamento del 2010, ma i segnali sono assolutamente confortanti, per cui tutta la filiera dei controlli, dalla scoperta dell'evasione al riscosso, sta aumentando di efficacia e di concretezza. È chiaro che di questi 50 miliardi una parte saranno riscossi, in parte in quest'anno, ma in parte saranno riscossi in maniera frazionata nel corso degli anni, anche perché c'è qualcuno di questi evasori che vorrà difendersi in giudizio e quindi farà contenzioso, e quindi ci sarà una riscossione frazionata nel tempo. Per quanto riguarda invece lo scudo fiscale, credo che i messaggi che sono stati così lanciati a chi aveva capitali all'estero prima dell'operazione di scudo fiscale sono stati molto chiari, cioè quella era l'ultima occasione per mettersi in regola e riportare i capitali in Italia. Questi dati sono la dimostrazione che questi messaggi erano veri e effettivi. La lotta all'evasione fiscale internazionale con lo scudo fiscale è aumentata, tant'è che questi sono i risultati. Ho capito, voi dite, insomma, proprio perché avevamo dato l'ultima possibilità, speriamo che sia l'ultima, a chi aveva portato i capitali all'estero, adesso li becchiamo di più. Mi dice in una battuta sul fronte, è una domanda che arriva sempre, gliela devo fare: perché secondo lei, che è un esperto, non si riescono a detrarre le spese per idraulico, parrucchiere, elettricista, in questo modo stimolando noi a chiedere le fatture e le ricevute? Guardi, su questo argomento sono stati prodotti da organi qualificati molti studi, molti approfondimenti. Non c'è la sicurezza sulla misura di quanto si potrebbe consentire la detrazione, sia per non avere effetti penalizzanti sul gettito, ma soprattutto per avere la sicurezza che questa possibilità sia effettivamente deterrente rispetto all'evasione. Ecco, non voglio mettere in difficoltà, ma insomma il punto è questo, che lo Stato non sa cosa capiterebbe, cioè quando tu rinunceresti a determinate chiaramente imposte perché le porti in detrazione e ti pago meno tasse, non sai quanto questo poi ti porterebbe a far emergere sommerso. E con questi chiari di luna, aggiungo io, sui debiti sovrani di vari paesi, incluso l'Italia, meglio non rischiare. Mi dispiace dirlo, ma meglio non rischiare sulle previsioni di gettito e di spesa. Della lista Falciani parleremo un'altra volta. Io devo ringraziare perché ho altri temi. Grazie per la disponibilità al generale Stefano Screpanti, capo ufficio tutela delle entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza. Però un aggiornamento sulla lista Falciani ve lo do: 774 verifiche della lista prodotta da chi ha rubato i nomi dei 5.400 correntisti italiani, i nomi erano molto di più. 774 verifiche concluse, pensate, finora 180 milioni di euro evasi, 28 evasori totali scoperti, e l'impatto dello scudo fiscale non ha determinato particolari criticità sull'andamento dei controlli. Le persone della lista Falciani erano per la metà in Lombardia, 51%, Lazio 15%, poi Piemonte 7,5%, Emilia Romagna 7%, Veneto 6%, Toscana 4%. E poi citate il caso di Dolce Gabbana. Ho capito, io ripeto, chi fa l'evasore, è inutile che mi scriviate totale, ma maggior ragione, e poi chiede i bonus per la scuola, per i libri, per la mensa, è indegno perché ruba posto a qualcun altro. Voi scrivete, ma lo fanno per camuffarsi meglio, e chi se ne frega, sempre indegno resti, così come non ho nessun problema a dire che insomma Dolce Gabbana, già condannati dall'Agenzia delle Entrate a pagare 800 milioni di euro di multa per evasione fiscale, il PM li ha rinviati a giudizio assieme a altri 6 imputati per evasione fiscale per oltre 1 miliardo di euro, 420 milioni a testa Dolce da una parte, Gabbana dall'altro, e 200 milioni da società, truffa e danno allo Stato, e si va appunto in via giudizio come avviene spesso in questi casi. Allora, l'IRAP è arrivata, all'aggiornamento dell'IRAP, la borsa può attendere. Ci colleghiamo con Massimo Lupoi, collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Massimo, buonasera. Buonasera a tutti. Non abbiamo moltissimo tempo, però voi avete avuto modo di avere per primi, come agenzia di stampa, complimenti, il testo della proposta di riforma dell'IRAP. Sì, guarda, è proprio disegno di legge delega per il riordino dell'IRAP, sì. Esatto, una novità dell'ultima ora, andrà probabilmente al prossimo Consiglio dei Ministri. E si tratta, sembra da una prima lettura, di un ampliamento della possibilità di dedurre l'IRAP dalle imposte sui redditi. Oggi questa deduzione è limitata al 10% sulla parte che riguarda il costo del lavoro e gli interessi passivi. E questo disegno di legge delega, che domani sarà nel Consiglio preliminare prima del Consiglio dei Ministri, sembra voler ampliare questa possibilità di dedurlo. Adesso, se si tratti di un taglio o semplicemente di una possibilità di ampliare le deduzioni, lo capiremo. Più avanti. Quindi la possibilità di dedurre parte, o insomma, vedremo quanto dell'IRAP dall'imposta dei redditi. Esatto. Quindi IRPEF e IRES. IRPEF e IRES. Chi paga l'IRAP può dedurla dall'imposta sui redditi. Grazie, no, è importante invece perché era quasi una breaking news dal punto di vista fiscale. Grazie al collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Massimo Lupoi. Cos'ho? 2 minuti, 3 minuti per la borsa. La borsa. No, vabbè, poi scavalliamo anche per quello che riusciamo dopo le 18, prima dell'intervista con Chiamparino. Allora, la borsa più 0,12%, poca roba oggi. Parigi invariata, Francoforte meno 0,3%, Londra meno 0,3%, l'America più 0,2%. Non mi scrivete poco spazio per la borsa, perché la borsa è l'appuntamento, l'unico appuntamento fisso del programma, per cui. non mi sembra che la bistrattiamo. Fondiaria SAI meno 2,14, Buzzi Unice meno 1,5 come Telecom Italia, Azimut meno 1,3, Exor meno 1,2, Bulgari meno 1,1, Unicredit meno 1%, Enel Green Power la migliore più 2%, Parmalat più 1,90, Fiat più 1,5, Saipem più 1,40, Diasorin più 1,40, Ubibanca più 1,40, Banco Popolare più 1,30 come Finmeccanica, lo 0,90 lo guadagna Intesa. San Paolo, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Fiat la facciamo dopo il nostro GR. Fondiera SAI. Fondiera SAI risente dell'incertezza. Oggi, ricordiamo, la borsa ha reagito positivamente ad alcuni dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti, ma ha pesato molto l'incertezza legata alla situazione egiziana. In questa congiuntura sono stati comprati tutti i titoli più difensivi a partire dalle utilities, mentre Fondiera SAI, che è un titolo che risente anche dell'incertezza legata alla propria ricapitalizzazione e ristrutturazione, oggi è stata venduta tra i più venduti in borsa. Ha perso il 2,14%. Ecco, l'Egitto in maniera diretta, in questo caso non come incertezza, ha pesato molto sui tacimenti, che ha chiuso temporaneamente la sua fabbrica in Egitto, che si chiama Suez, e vale il 15% del fatturato sta fabbrica. Sì, esattamente, dal cemento infatti fin dall'avvio è tra quelli che hanno perso di più, ha chiuso in calo del 3,68%, l'Egitto pesa per il 15% dell'intero fatturato del gruppo, come ricordavi la società ha confermato di aver sospeso temporaneamente la produzione, in questo caso appunto l'effetto quindi è proprio diretto della difficile situazione in Egitto. Tra l'altro sul risparmio non convertibili i tacimenti perde il 4,15, Credem tra le peggiori in assoluto meno 5,7 e invece tra le migliori in assoluto, anzi la migliore in assoluto, investimenti e sviluppo più 32,6, Icon più 15, Antichi Pelletieri più 15, Mondo Home Entertainment più 13, Carsef più 10,3. Dopo il GR raccontiamo anche Chrysler, Fiat e qualche altro titolo. 349-238-6666 per gli SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Allora concludiamo l'approfondimento di borsa e poi parliamo col sindaco e presidente dell'ANCI, sindaco di Torino Chiamparino. Paolo Paronetto, Fiat, perché oggi sono usciti i dati di Chrysler, molto buoni, utile netto arriva nel 2011, ricavi per 55 miliardi, si è raggiunto già il break even operativo nel 2010, quindi il pareggio tra costi e ricavi. Fiat. Sì, esattamente, sono stati proprio i conti di Chrysler a sostenere Fiat, che in mattinata stava perdendo terreno insieme a tutto il comparto auto europeo, mentre sul finale ha chiuso in rialzo dell'1,5% a 7,09 euro. Come ricordavi tu, Chrysler aveva chiuso il 2010 con un utile operativo superiore alle attese degli analisti e anche al target che era già stato corretto al rialzo dalla stessa Fiat, utile operativo di 763 milioni. Tornerà all'utile netto nel 2011 e durante la conference call con gli analisti l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha confermato questo target dicendosi fiducioso nella possibilità di raggiungerlo. Tutti i dati che quindi hanno convinto il mercato, che hanno premiato i titoli di Fiat SPA, quella che raggruppa l'attività nell'auto, sì, del gruppo del Lingotto, mentre Fiat Industria ha chiuso in calo dello 0,55%. Allora, fate notare Edison, sì, anche Edison ha attività in Egitto per quello che riguarda l'effetto egiziano, diciamo, sulla borsa. Invece vi confermo, lo dico a chi scrive, che Sky Italia e Fastweb starebbero per siglare un accordo per combinare l'offerta televisiva via satellite di Sky con i servizi internet a banda larga di Fastweb. È uscito il dato invece anche di Benetton Group per il 2010, un utile netto poco superiore ai 100 milioni di euro, un calo rispetto al 2009 che era 122 milioni. E ancora per quello che riguarda la Roma Calcio, il fondo Abar ha presentato, che sarebbe Abu Dhabi, il fondo di Abu Dhabi ha presentato l'offerta. Antichi Pelletieri, che è il tra i migliori in assoluto, più 15%, lì pesano anche le indiscrezioni di Plus. Esattamente, ormai il mercato crede che sia in arrivo la vendita della partecipazione in Mosaicon, che è un'azienda partecipata insieme al fondo sì. Triai, che detiene marche come Mandarina DAC, e dovrebbero, appunto, secondo quanto scritto da Plus 24 nel weekend, sono in arrivo nelle prossime settimane e ci sono in pista alcuni possibili investitori. Ovviamente serve un passo importante nel riassetto definitivo del gruppo Antichi Pelletieri, che ricordiamo fa parte della galassia Burani. Grazie, grazie Paolo Paronetto, agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso torniamo sul federalismo. Perché su quello che si gioca poi il futuro anche fiscale del paese, perché giovedì deve passare in commissione bicamerale la riforma, se no la Lega ha detto che va a elezioni, e perché ci sono alcune cose che continuiamo a non capire. Ne abbiamo parlato prima con il professor Bordignone, adesso ne parliamo con il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nonché sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, io so che la domanda le può sembrare banale e un po' stupida forse, ma insomma io non ho capito una cosa. È giorni che ci stiamo occupando anche in questo programma di federalismo, abbiamo capito dell'addizionale IRPEF fino allo 0,4 oppure 0,8 con effetto retroattivo, la compartecipazione all'IRPEF, l'IMU, cioè la vecchia ICI con un'aliquota del 7,6 per mille, tutto quello che giustamente fa parte anche di maggiore margine di manovra per voi nella tassazione. Ma se io ho capito bene il federalismo, quello che voi chiedete in più come tasse il governo me lo dovrebbe elevare come governo centrale, o no? Ma sì, lei ha centrato esattamente il problema, perché due precisazioni. Allora, una, questo decreto secondo me è improprio chiamarlo decreto sul federalismo, perché l'autonomia fiscale dei comuni di per sé non postula il federalismo. Esiste in paesi come la Francia, che sono notori paesi centralisti e non federalisti. Seconda precisazione, l'autonomia dà la possibilità, non l'obbligo di fare, quindi non c'è nessun sindaco che a cuor leggero si metta ad aumentare a manetta le addizionali IRPEF o a mettere imposte di soggiorno o quant'altro. Terzo problema, c'è però quello che, diciamo, delle due l'una, se si riducono le risorse, eliminate tutte le autobru, gli sprechi, tutto quello che vuole, ma alla fine per chiudere i bilanci o si riducono significativamente i servizi o si aumentano le tariffe. Le tariffe, lei sa, colpiscono prevalentemente il ceto medio e medio basso, cioè quelli che ricorrono i servizi pubblici. Uno sale su un tram e se ne accorge subito, insomma, da chi ha fatto l'80% di, certo, chi viaggia sul tram. A quel punto io dico l'addizionale IRPEF, se non altro, un po' meno iniqua, perché è progressiva, chi ha di più paga un po' di più. Uh-huh. Lei però pone la questione centrale, perché è chiaro che, quindi, premesso che facoltà non è obbligo, è chiaro che però, diciamo, in una situazione di risorse scarse, la spinta a ritoccare le tasse a livello locale ci sono, ma il problema è che mentre funzioni, i poteri sono passati di norma e di fatto anche massicciamente ai comuni e alle province, alle regioni, e a questo non è corrisposta una riduzione centrale. Cioè, se non si vuole che aumenti la pressione fiscale, bisogna ridurre la spesa dei ministeri e ridurre il prelievo dell'erario centrale sui cittadini e sulle imprese. È semplice. Ecco, però su questo vediamo di capirci. Cioè, voi che cosa lamentavate quando avete bocciato tutti i comuni, centrodestra, centrosinistra, grandi, piccoli, nord, sud, la bozza? Lamentavate, insomma, la non certezza dei trasferimenti. No, per far capire a tutti, mi rendo conto che poi i temi sono anche tecnici, ma voi lamentavate che non c'era certezza nei trasferimenti, né che voi avreste potuto sopperire a mancati trasferimenti con flessibilità vostra, quindi con... Guardi, la prima bozza non c'era certezza di nulla, né del sistema a regime, cioè nel 2014, perché non si sapeva quale sarebbe stata l'aliquota, quindi se non si sa qual è l'aliquota, non si sa qual è, certo, il gettito dell'aliquota medesima, quindi io non so se posso far fronte alle stesse cose con cui faccio fronte adesso con i trasferimenti per quanto tagliati. Prima cosa, non c'era certezza perché tutto era demandato per il transitorio a dei decreti, dei cosiddetti DPCM, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora, io non voglio la politica non c'entra, diciamo, ma è chiaro che le incertezze politiche influiscono, perché un conto è un DPCM con un governo che è solido, è stabile, si sa che dura fino alla fine, un conto è con un governo che, diciamo, un pochino traballante è adesso, con una maggioranza esigua. Comunque adesso arriveremo ai temi di politica nazionale, però volevo capire, voi avete detto non c'è certezza a regime quanto sarà l'aliquota nostra, le immagini, i trasferimenti, cioè quanto potremo ricevere dallo Stato o in alternativa chiedere noi ai cittadini. Poi è arrivata la quarta bozza, questa che stiamo discutendo, sul federalismo municipale, cioè fiscale di carattere comunale. E qui avete avuto maggiori garanzie, cioè la compartecipazione dell'IRPEF all'IRPEF fino al 2%, la compartecipazione al 30% sull'imposta di registro, l'imposta di bollo, cioè parte delle imposte che prima teneva lo Stato, lo spiego a tutti, perché vedo molti messaggi al 349-238-6666, le avete, anche voi comparteciperete, cedolare secca e quant'altro. Allora, il timore che noi abbiamo, Sindaco, in questo momento, e Presidente dell'ANCI, è che la pressione nazionale fiscale resta invariata. In aggiunta, molti comuni, perché insomma l'anno scorso vi hanno tagliato con la manovra finanziaria 1,5 miliardi per il 2011 e 2,5 miliardi per il 2012, molti comuni, vuoi per fare l'asilo, vuoi perché hanno speso male i loro soldi, aumenteranno le tasse comunali. Scusi, però è molto di più, perché i tagli sono di 4 miliardi, tra tagli e trasferimenti e manovra sono 4 miliardi per il 2011 e 3 miliardi sul 2012 e 2 miliardi e mezzo sul 2012. 2 miliardi e mezzo li avevamo anche noi, lei dice 4 perché ci sono anche i mancati trasferimenti. Sono 2 e mezzo per la manovra e 1 e mezzo i tagli di trasferimenti. Ok, peggio mi sento. 4 miliardi vi hanno levato nel 2011, 2 miliardi e mezzo vi hanno levato nel 2012. Esatto. Allora, io dico, è chiaro che molti comuni per far l'asilo o semplicemente per non andare in rosso, andare in fallimento, aumenteranno questi addizionali. Non mi è chiaro perché, insomma, un percorso di federalismo in cui tu deleghi dal centro alla periferia deve portare poi a me a aumentare il prelievo fiscale. No, io, neanche a me è chiaro, ma io le dico un'altra cosa. Allora smettiamola di chiedere che i comuni facciano i servizi e noi siamo tranquilli, cioè, nel senso che qui bisogna anche smetterla con questa doppiezza e questa schizofrenia, perché da una parte si viene a chiedere ai comuni di fare tutto bene, possibilmente gratuito, e dall'altra parte poi non si vuole che le tasse si cancellino. Allora facciamo una cosa, Sindaco, adesso c'è il traffico, poi io vorrei capire se il federalismo fiscale fosse già legge dello Stato, cosa farebbe lei da domani a Torino? Così vediamo di capire insomma quali sono i margini. 349-238-6666 per i vostri sms e poi anche una domanda sulla proposta di Berlusconi, visto che lei è un esponente di picco del PD. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, Sergio Chiamparino, questa volta non come presidente dei comuni italiani, ma come sindaco di Torino, se lei se la legge fosse già legge, cosa farebbe a Torino? Quindi applicherebbe le possibilità che vengono offerte da questa bozza di federalismo fiscale? Sull'IRPEF io non potrei farlo perché sono già allo 0,5 e quindi, come è noto, quello si può fare solo per chi è sotto allo 0,4. Primo, quindi è una possibilità limitata. Secondo, io sì, per esempio il contributo di soggiorno minimo nel caso di Torino, perché credo che Torino non è una città turistica come Roma, Venezia o Firenze, che quindi hanno grandi possibilità, però un contributo minimo lo metterei, perché se riesco a portare a casa quei 2 o 3 milioni all'anno che mi servono per investire in manutenzione, in abbellimento della città, questo credo convenga anche agli operatori turistici della mia città. Non lo farò perché, ripeto, non sono cose che deve decidere la nuova amministrazione, non certo l'amministrazione uscente. E quindi insomma l'IRPEF, e secondo lei la maggior parte dei suoi colleghi sull'IRPEF, quelli che c'hanno sotto lo 0,4, la potrebbero usare? Cioè la tentazione è forte, Sindaco Chiamparino. Ripeto, nella situazione attuale bisogna decidere sulle due cose che l'ho detto prima. o i servizi li riduciamo, io non, posso, non faccio drammatizzazione, li riduciamo, cioè, cominciamo a ridurre i giorni di mensa, facciamo cose per dire, fare un esempio, no? Oppure riduciamo i trasporti scolastici, queste cose qua. Allora, o li riduciamo o se no aumentiamo le tariffe. Io sono stato in questo fine settimana a Bruxelles, sa quanto costa una corsa singola del tram, non del tram a Bruxelles? 1,70 e la corsa plurima costa 1,50. Da noi costa uno. Allora, o se però, ripeto, portare la corsa del tram a 1,70 vuol dire che pagano prevalentemente i più poveri, perché certo, sono quelli che usano i tram, no? Perché gli altri hanno i SUV. L'addizionale IRPEF è una, se non altro, ha, diciamo così, fra virgolette, il vantaggio che si spalma in modo progressivo al reddito. Ecco, quindi chi ha il SUV, sì, se non è un evasore fiscale, paga un po' di più di chi invece va al lavoro. Se non è uno di quei 9.000 evasori totali di cui parlavamo prima con il generale della Guardia di Finanza. Sì, una cosa, sindaco, glielo dico per correttezza, non è che il mondo si divida tra chi va sul tram e chi va in SUV, ci sono anche quelli che hanno le utilitarie, in mezzo c'è tutta una fascia media, però ho capito, ho capito benissimo l'esempio. A questo proposito, vedo che gli ascoltatori dicono, beh, il governo potrebbe anche trasferire meno ai comuni, mantenere le tasse invariate per noi, e però utilizzare i soldi in più, perché se trasferisci meno soldi te ne restano più in cassa, per abbattere o ridurre il deficit e il debito. Infatti questa sarebbe un altro percorso virtuoso, di fatto verrebbe caricato attraverso la tassazione comunale su di noi un risanamento dei conti pubblici, che comunque sarebbe un percorso virtuoso, o no, Chiamparino? Almeno questo? Sì, ma guardi, insisto, quello che qui si vuol, cioè io comincio ad averne proprio ad essere stufo di un atteggiamento per cui i sindaci e i comuni sono l'imbuto di qualsiasi cosa, no? Per cui quando c'è da chiedere in ultima istanza si va ai comuni, anche su cose su cui i comuni non c'entrano niente, potrei fare mille esempi a cominciare da quello dei profughi, dei richiedenti asilo, che è una competenza che poi però alla fine si arriva a chiedere, e io le potrei fare un elenco di quanto ha speso il Comune di Torino nell'ultimo anno per dare una risposta a queste esigenze, che sono esigenze di civiltà ma che non spettano ai comuni. Dall'altra parte, quando poi i comuni cercano delle leve fiscali e si dice che non possono usarle o che se le usano sono dei vampiri, dei Dracula che azzannano al collo i cittadini, ma lei scusi, è mai stato in un ministero? Su questo, cioè vedo, non posso andare avanti perché il nostro tempo a disposizione è praticamente terminato, però ho una domanda per lei che riguarda sempre l'economia, ma riguarda lei come esponente del PD. Oggi sul Corriere della Sera, in sostanza, il Presidente del Consiglio Berlusconi, sarà la difficoltà in cui si trova per i motivi a cavallo tra privato e pubblico, sarà la difficoltà della maggioranza, sarà quello che volete, ma che io ricordi, per la prima volta da quando è premier nei vari governi, chiede di fatto al PD, oltre che ai centristi, un'apertura, dice in sostanza uniamo le forze per un patto di rilancio dell'economia del paese. Allora, il PD mi sembra che abbia già risposto complessivamente, però vorrei sentire la sua opinione. Io adesso in politica non è che si fanno prigionieri, per carità, però anche voi avete sempre detto che bisognava mettersi attorno a un tavolo per condividere alcune riforme che forse da solo... Per mettersi attorno a un tavolo bisogna essere interlocutori credibili tutti, francamente mi pare che in questo momento la credibilità del Premier sia non in grado di garantire che quel tavolo vada oltre una lettera o uno scambio epistolare sul Corriere della Sera. Ma credibilità perché? Per le vicende private? Beh, insomma, non mi pare, cosa bisogna ancora dire. Cioè, no. Cioè, però posso dire una cosa, se non è obiettivo di questo programma, però la vita privata è quello che uno fa per difendere la sua vita privata, anche commettendo errori, è una cosa, però politicamente... Cioè, è un altro elemento, un'apertura politica o no? O così come uno potrebbe avere una vita privata da santo e non fare nessuna apertura politica? Io potrei fare le osservazioni, per quale ragione quella lettera non l'ha scritta prima che esplodesse il caso Ruby e della nipote di Mubarak? Perché le esigenze di crescita, di collaborare per la crescita c'erano anche prima, quindi cioè, mi sembra francamente una richiesta che quantomeno è tardiva, in ogni caso è fortemente viziata dal fatto che ormai c'è una vicenda che secondo me mina la credibilità del nostro primo ministro, mi dispiace da italiano perché ripeto le potrei riportare le battute dei taxisti di Bruxelles che... Sì, no, no, vabbè, ma quelle insomma... Che credo che non sia difficile, ma anche per lei immaginare. No, no, abbiamo una certa fantasia. Dopodiché, quindi è un no a un'idea di un accordo con la maggioranza? No, ma io sa... Ma se invece, fatto... mi scusi, una curiosità mia a questo punto, se invece che chiederlo Berlusconi lo avesse chiesto Tremonti... Molto diverso, perché è chiaro che se, almeno questa è la mia opinione, se ci fosse la disponibilità del Presidente del Consiglio a farsi temporaneamente da parte per far fronte alle vicende che lo riguardano, all'Andreotti diciamo, ecco, per citare un campo completamente diverso, la storia che tutti conosciamo, e un Tremonti che si fa avanti a proporre un'intesa anche parlamentare, io poi le forme possono essere molte, io ci guarderei con grande attenzione. Cioè, farsi da parte temporaneamente, mi scusi per capire, vuol dire che cosa? Che uno si dimette dal Presidente del Consiglio per risolvere i suoi casi giudiziari e della vita privata? È tutto evidente, come, ripeto, ha fatto per lunghi anni il Presidente Andreotti, alla fine risultando... Sì, non era allora Presidente del Consiglio per Andreotti quando venne fuori l'inchiesta per mafia. In ogni modo, comunque, si è difeso... come si dice nei tribunali, alla fine è riuscito vincitore, se si può per usare cui se Berlusconi facesse un passo indietro e diciamola tutta, Tremonti fosse primo ministro scelto da questa coalizione di governo, se ho ben capito, sempre senza andare alle elezioni, voi sareste disposti a ragionare contro? Io parlo per me, cioè... Beh, però insomma lei non è solo sindaco di Torino, è uno dei principali. Se lei chiede a me, io dico la mia opinione, io sarei dell'opinione che sarebbe una offerta da andare a vedere, insomma, ecco, sarebbe una proposta da andare a vedere, così no. Perfetto. Grazie al presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, nonché sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Grazie a lei. Arrivederci. Insomma, vicende private, pubbliche della magistratura, Berlusconi deve farsi da parte e poi si può ragionare con un premier Tremonti, adesso sintetizzo un po', secondo Chiamparino, questa proposta di Berlusconi bipartisan per rilanciare l'economia. Giuseppe Cruciani, è un problema di persone a questo punto, giustamente, è un'opinione politica, ricordo che le vicende sono giudiziarie, oltre che private. Giuseppe. Che vuoi sapere da me? Cosa ne pensi di Chiamparino? Una volta tanto la faccio io domanda su... Chiamparino che è uno dei più ragionevoli, ha detto il PD. La posizione del Partito Democratico, che è quella con Berlusconi non si tratta. Insomma, mi sembra chiaro. D'altra parte, queste proposte arrivano un po' a tempo scaduto, arrivano sono un po' il segno di Berlusconi, dici tu. Sì, certo. Segno di una difficoltà. E d'altra parte anche la proposta, per esempio, di D'Alema di fare un governo di unità nazionale di tutti contro Berlusconi alle elezioni, mi sembrano delle cose che poi durano lo spazio di una giornata, di un paio di giorni, se ne parla sui giornali e poi alla fine di ciccia non c'è nulla. Ecco, in questo paio di giorni se ne occuperà anche la zanzara? Beh, certo, ce ne occupiamo adesso, subito. Tra qualche minuto, se ce la fai, insomma, ti sento un po' abbattuto, ma che la Lazio, no? No, perché? Abbiamo vinto. No. E appunto, allora vediamo domani, io vi auguro nulla, dai, perché sennò poi si capisce cosa tifo. Grazie Giuseppe Cruciani, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.